Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Improvvisamente venne l'idea che dobbiamo difenderci da soli. Improvvisamente nacquero i primi eroi collettivi, vecchietti strampalati che hanno preso la doppietta e hanno ammazzato qualcuno che probabilmente voleva sì entrare in casa di soppiatto, probabilmente gli avrebbe rubato la pensione, ma adesso già c'è stecchito e quel vecchietto probabilmente diventa un eroe. Questo fa sì che tutti pensano che basti acquistare una pistola, prendere il patentino al poligono di tiro, poi tenersi la carica sul comodino per stare sicuri e dormire dei sogni nella speranza che entri qualcuno e finalmente essere anche noi il vendicatore mascherato, essere anche noi la 44 Magnum dell'ispettore Callaghan, essere anche noi il giustiziere della notte. Beh, le cose non stanno proprio così, non è proprio così facile maneggiare un'arma, non è proprio così facile sparare addosso a una persona. È possibile nel nostro paese acquistare legalmente un'arma e modificarla? Per le nostre leggi che ci sono a livello nazionale, a livello europeo, siamo tra i paesi migliori a livello di legislazione sull'acquisto, detenzione e possesso di armi. La legge in Italia parla chiaro: per ottenere il porto d'armi si deve essere maggiorenni e avere requisiti psicofisici idonei e un motivo valido per richiederlo. Di armi però se ne trovano di diverse, esistono quelle a salve e quelle a uso scenico. Chi produce delle armi a salve qui in Italia deve rispettare dei regolamenti con materiali particolarmente idonei che non possono essere alterati e modificati. Qualora uno si inventasse anche di poter metterci una cartuccia vera o cercare di farla funzionare, gli esploderebbe in mano, è praticamente impossibile, cosa che in altre parti d'Europa invece è diversa. Ma è così semplice modificare un'arma? Lo abbiamo chiesto ad un esperto che vuole rimanere anonimo e sembra proprio che in caso di arma da uso scenico si possa fare. Se noi abbiamo un'arma scenica, con alcuni accorgimenti tecnici non eccessivamente difficile è possibile farlo. Se in tutta Europa le armi sceniche fossero considerate alla stregua come è in Italia. Questo è un servizio di Sky TG24 di Monica Napoli con un titolare di Armeria Cremona, che è una città, un'area importante per la produzione di armi in Italia. Domanda come è possibile attraverso alcuni escamotage trasformare un'arma da collezione quasi giocattolo, che col tappo rosso, in arma funzionante, un'arma scenica. Le armi sceniche sono quelle armi che usano nei set del cinema, della televisione, che a tutti gli effetti sono armi modificate proprio perché devono funzionare. Devo fare un botto plausibile, devo fare una fiammata plausibile, ma però non possono sparare. Però magari cambiando alcuni pezzi ritorna ad essere quello che è un'arma. Ma non credo che sia questo il settore che noi interessa. Noi interessa capire come, in che maniera è possibile acquistare un'arma per uso sportivo o acquistarla per una detenzione in casa, e poi quanto in realtà questa attività è mossa dal desiderio di avere comunque un'arma, non di andare a sparare al tiro a segno o di andare comunque a fare un'attività sportiva. Ci chiama subito Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Pronto? Sì, la sto ascoltando. No, volevo dire che tutto l'aumento dei porti d'arma che viene tanto appunto declamato sui giornali, eccetera, volevo dare anche delle spiegazioni più logiche. Aspetti, porti d'arma, sta parlando di porti d'arma o permesso di detenzione di arma per uso sportivo? Perché questo stiamo dicendo noi. Allora, il porto d'armi è anche quello l'uso sportivo, diciamo, quello chiamato il tiro a volo. Sì, ecco, l'uso sportivo. Allora, se un ragazzo, e ora ce n'è tanti, che sono disoccupati e devono fare il concorso per entrare nell'esercito, marina o qualsiasi altro corpo armato dello Stato, se uno ha un porto d'armi ha un punteggio in più. E quindi io sono un istruttore di tiro, quindi ne vedo tantissimi di questi ragazzi che vengano, fanno il corso, prendono il porto d'armi, ma poi non è che comprano armi, eccetera, lo utilizzano solo ed esclusivamente per fare il concorso. Quindi lei, Marco, dice che il crescere, diciamo, notevole in questi anni, perché serve per fare più punteggio per accedere, diciamo, a dei concorsi delle forze armate. Esatto. Poi un'altra ragione c'è. Lo Stato italiano ha decretato qualche anno fa, ora non ricordo di preciso, ma pochissimi, 3 o 4 anni fa, che quando uno eredita un'arma, prima si poteva dichiarare che la deteneva in casa, senza cartucce, eccetera, e la poteva detenere tranquillamente senza fare un corso al poligono e senza avere porto d'armi, cosa che adesso è diventato obbligatorio. Io mi trovo a dover fare dei corsi a persone a signore di 70-75 anni rimaste vedove che per poter tenere in casa per ricordo il fucile del marito devono venire lì a fare il maneggio alle armi. È divertente veramente questa storia, però. Cioè non si separano dall'archibugio coniugale, voglio tenerlo come feticcio, e fanno il corso. Bravo. E lei le fa sparare. Vanno a casa e glielo sequestrano, ha capito? E lei fa sparare, ecco, le signore, gli dà un fucile. Esatto, io gli faccio il corso teorico. Ma gli si sganassano a clavicola se sparano, signore. A volte gli trema le mani, bisogna aiutarle, proprio per poter avere un fucile in casa che è il ricordo del marito, che magari è anche inutilizzabile, magari anche in cattive condizioni. Ha capito? Ma non sarebbe più semplice, scusi Marco, non sarebbe più semplice, azzardo un'ipotesi, che la legge dicesse: vuoi tenerti il fucile di tuo marito, lo fai piombare in qualche maniera che diventa un'arma inerte e tientelo pure. Ma potrebbe essere un escamotage, però per piombare non è così semplice, perché bisogna portarlo a un'armeria, l'armeria deve fare il lavoro e certificarlo, e quindi anche questo ha un costo, ha capito? E si riduce poi ad avere un'arma che non ha più valore anche in seguito, se uno veramente volesse, per dire, cederla. Quindi diciamo un'arma diventa un'arma che scotta, meglio. Lo Stato vuol far cassa con queste cose, come al solito, fa fare i corsi ai ragazzi. Quindi secondo lei non c'è un motivo, diciamo, di sicurezza, di tutela? No, sicuramente sì, ma siccome, le ripeto, io insieme ai miei colleghi facciamo i corsi per il maneggio armi, per ottenere il certificato che dà l'abilitazione al maneggio, e percentualmente io vedo una marea di ragazzini, tante di queste signore che ormai signore anche delle vedove, diciamo, violi, eccetera, che vengano solo esclusivamente per quello. Poi al poligono non li vedi più e 90 su 100 non comprano neanche un'arma. Va bene, questo è una testimonianza importante quella che ci dà Marco, permette già di definire un po' l'area. 800 24 0024, vediamo però dal fronte degli acquirenti. Un istruttore di tiro dice: sì, ci sono delle categorie che voi non immaginate nemmeno, sono quelli che vogliono fare i concorsi nelle forze armate, e sono le vedove che ereditano la Santa Barbara del marito morto, vogliono tenersi il ricordo della pistola del marito e quindi vanno a fare il corso per poterla tenere. Luca? Sì, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io porto la testimonianza mia particolare, in cui io ho un'arma e la tengo per difesa abitativa. Come l'ha acquistata? Beh, io ho un porto d'armi regolare, tiro a volo, e mi esercito 2-3 volte al mese in un campo apposta per la difesa. Quindi lei, diciamo, conferma l'inchiesta di Federico Malerba: lei ha preso una licenza di tiro a volo, si esercita quel tiro a volo, ma in realtà il suo scopo, non che questo sia imputabile o debba considerarlo con senso di colpa, comunque lei gli dà sicurezza comunque avere il fucile a casa. Non ho alcun senso di colpa. No, ma lo dico io, nemmeno io. A casa, e ho la pistola a casa. Sì. Il tiro a volo anche con la pistola si fa? Ma naturalmente. No. Ah, ecco. Posso sapere che tipo di armi sono, che calibro? Sono armi anche adatte per l'eventuale difesa? Certo, io tengo una Glock, una 9x21. Non è proprio un'arma sportiva? No, non è classificata come arma comune, ma comunque con il porto d'armi di tiro a volo lei può comprarne. Sì, ma mica dico sia negativo, ma può comprarne tre. L'input è quello, dice: voglio un'arma da difesa, come faccio? Il porto d'armi non me lo danno, prendo licenza e tiro a volo. Il fucile cos'è? Che fucile è? Ho un Mosberg a pompa e ho anche un'arma interessante, un VZ-58, che è un'arma simile, non è proprio come un Kalashnikov, è un'arma da guerra declassata, con un calibro. Non è un'arma da guerra, perché le armi da guerra sono proibite. Sì, per dire, però declassata come calibro, però ha le caratteristiche di un'arma da guerra. Quindi lei ha una armeria in casa che non sembra. mica glielo dico, guardi, mi diverte, vorrei avercela io a casa, mi divertirebbe l'idea, non dico che, però capisco che esattamente lei ha comprato le armi che non sono proprio esattamente le armi in cui si vede andare a tirare al volo, sinceramente. Ha delle armi che servono come deterrente per difendersi casa, tutto sommato. Sì. Va bene, perfetto, conferma quello che ho detto. Stefano Fiocchi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Stefano Fiocchi è presidente dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni. Parla con un bambino che ha sempre desiderato avere un fucilino per regalo a Natale. Un ex bambino che ne ha sempre vissuti in casa. Sì, ma non gliel'hanno mai regalato, pur avendoceli in casa le armi. A me non mi ha mai regalato niente, perché non si usa. È beato lei. Comunque un fenomeno di passione, per esempio l'aumento dei questa è la dimostrazione, l'aumento dei porti d'arma uso caccia, non è un trucco, perché è vero. Per esempio l'esame è un esame estremamente severo, al di là della condivisione della caccia o meno, che sicuramente trova molti... Ma poi bisogna studiare gli animali, le regole, le leggi, non è proprio una passeggiata, come prendere una patente. Infatti, quello dell'uso caccia è estremamente complesso da fare, non si fa. Anche lo stesso uso sportivo richiede, a parte tutta una serie di visite psico-attitudinali e fisiche, e poi comunque l'uso delle armi, insomma la conoscenza, quindi il fenomeno è in aumento, come ho sentito un ascoltatore, anche sappiamo che sono parecchie signore che stanno approcciando questo mercato. Quindi da una parte, più che io non la chiamerei un trucco, ma sicuramente un fenomeno sociale di un aumento del settore, tra l'altro non è solo italiano. Allora aspetta un attimo, Stefano Fiocchi, il tempo ci impone di avere una piccola pausa di qualche secondo, tra poco. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Questo permette al tiratore di fare un movimento molto più ridotto e arrivare prima sul bersaglio. L'importanza della punta, l'importanza del tallone e l'importanza del nasello. Perché nasello? Perché il naso deve andare verso questa zona. Noi abbiamo visto tanti tiratori, anche già esperti, che non vanno bene al nasello e quindi non c'è una buona combinazione. Una buona combinazione tra nasello e punta porta la fucilata senza nessuno sforzo sul bersaglio. Anche il grilletto ha la sua importanza. È chiaro che se uno le cose vuol far bene deve saper tutto sul nasello e sulla punta, è chiaro, sennò mica passiamo a parlare di aria fritta o di fritto misto. Il nasello è importantissimo. Sto ironizzando sul fatto che in realtà chi prende sul serio il tiro, l'uso delle armi, è una passione, un'arte, una tecnica, una cultura e via dicendo. Chi pensa che mettersi un'arma in casa gli dà maggiore sicurezza, e non censuro questo pensiero, prende questa possibilità di avere delle armi che a tutti gli effetti sono armi, che hanno un potere d'impatto, anche se limitato rispetto a un'arma da guerra, comunque notevole, un aspetto che è un valido deterrente, che riproducono armi belliche. Se le tiene in casa e vive più tranquillo, probabilmente pensa che con quello può salvaguardare la sua proprietà. Matteo, lei dove la tiene? Sì, buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Io ho fatto un percorso, diciamo, un po' al contrario, nel senso che un paio d'anni fa mi ero messo in testa, 35 anni, di provare, insomma, a tirare al poligono proprio per uso sportivo. Tant'è vero che mi sono iscritto al poligono, ho fatto tutto quanto, l'abilitazione al tiro, le visite, e ho preso il porto d'armi. Ma solo dopo 2 anni e passa, dopo che ho provato un sacco di pistole lì al poligono, ho deciso di prendere la mia pistola personale. Che si è comprato? Io mi sono preso una Colt calibro 38 Special. Canna? Canna da 2 pollici. Ah, proprio da tenerla, quella che si mette nel calzino praticamente. Esatto, proprio la mitica 2 pollici. Oltretutto è una pistola anche piuttosto rara, ho fatto fatica a trovarla. Sì, beh, adesso è un po'... È molto anni 70. Sì, esatto, infatti la Colt Agent anni 70. Senta, la fondina per metterla nella caviglia ce l'ha? No. Dove la tiene? No, la fondina ce l'ha però? No, c'è la sua scatola. Ma mai provato a estrarla da casa, da solo, così, solo per vedere come... Ma quanto... sì, no, la pulisco, diciamo, ogni tanto. Se la mette alla cintura e vede davanti allo specchio quanto ci mette. No, non voglio fare il saputello, ma... Un'arma con la canna 2 pollici non è esattamente un'arma da tiro, onestamente. Infatti io l'ho comprata successivamente per difesa personale. È un'arma da bruciapelo. Sì, esatto, è un'arma da bruciapelo, esattamente. Così si chiama. Io abitando molto isolato, veramente molto isolato. La tiene come arma da difesa, giusto? Esatto, in casa per difendere. No, bruciapelo soprattutto se uno le fa l'uso fantoziano di metterla nella cintura. Sì, ce l'ho qui da brioche. Certo. Allora, lei però quando la tiene a casa, quando la tiene a casa quest'arma, deve in qualche maniera renderla inefficiente, cioè tenere le munizioni scarica. Scarica, ma soprattutto per una questione... Essendo di... un'arma tamburo, manco dire la deve smontare, che smonta. Esatto. No, non c'è niente c'è da smontare. Da smontare lì. No, non c'è niente da smontare. I proiettili da una parte e l'arma dall'altra. Ovviamente tengo sempre nella scatoletta della pistola comunque due proiettili pronti ad essere... Pronti all'uso. Esatto. Un paio di supposte. Due. Vabbè. Quello che volevo dire è che secondo me la cosa più importante comunque delle armi da fuoco, perché non sono assolutamente dei giocattoli, bisogna sapere che cosa sia in mano, nel senso io vado ad allenarmi al poligono fino a 2-3 volte a settimana, tutte le settimane di tutto l'anno a sparare, in modo che si acquisisca una conoscenza di quello che è in mano, perché avere un'arma da fuoco in casa la maggior parte delle volte ti si ritorce contro. No, anche perché se lei sparasse per assurdo a un ladro e c'ha un fondello di cartongesso, va anche dall'altra parte. Esatto, la pistola 38 special passa, sì, passa quindi, di certo. Va bene, torniamo con Stefano Fiocchi, che l'avevo interrotto prima, Presidente dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni. Le domandavo prima, Stefano Fiocchi, se lei avesse in questo momento libertà di... È chiaro, lei le produce le armi, vorrebbe che fossero più facile possibile l'acquisto e la vendita, ma quale sarebbe secondo lei una normativa che in qualche maniera togliesse da questa ambiguità di dire mi compro delle armi, dico che vado a fare il tiro a volo, poi in realtà mi serve per difendere casa? Una cosa saggia, non dal punto di vista di chi le vende. No, beh, ma diciamo che la legislazione italiana è in questo momento è molto garantista, nel senso che poi sono previste appunto delle norme sulla custodia, delle norme, chiaramente il fatto che io ne la usi per il tiro a volo ne la posso tenere in casa e in casa ne posso fare l'uso della difesa. Quindi diciamo il fenomeno è un fenomeno che può darsi abbia sicuramente delle coperture su un punto di vista di sicurezza degli italiani, ma è un fenomeno che noi osserviamo in crescita proprio come fenomeno di mercato. Mi scusi, signor Fiocchi, le faccio una domanda, ma uno può comprare una pistola, denunciarla e tenersela a casa? Senza sì, deve fare chiaramente nulla osta l'acquisto, che prevede sempre una visita medica, prevede il maneggio... l'idoneità al maneggio e poi uno se la può tenere in casa. Quindi la maniera più semplice, non occorre fare grandi licenze, fare l'esame di calcio. No, probabilmente appunto perché non è un trucco questo qui dell'aumento di potere, ma è proprio una passione che è aumentata negli ultimi anni. E la dimostrazione è quella della caccia, che fino a 2 anni fa i dati dei porti d'armi di caccia negli ultimi 20 anni erano in diminuzione. Cioè la legge non impedisce di comprare un'arma e tenersela a casa, basta che tu lo denunci, che tutti sanno che tu ce l'hai, che sei donna averci. Teniamo presente che poi tutte le armi sono devono essere regolarmente denunciate, le munizioni anche, quindi è una legislazione che è tra le più all'avanguardia in Europa e al mondo. Quindi in questo senso non occorre avere nessun particolare documento, bisogna avere un'abilitazione all'uso dell'arma, comprarla e tenersela in cassa. L'autorità di pubblica sicurezza fa le opportune verifiche. Questo beh, certo, c'è dei precedenti penali, se bastoni quotidianamente la moglie, se sei un violento, chiaro che non te lo danno, ma un normale cittadino senza incensurato che dice vivo in campagna, vivo solo, vorrei un'arma in casa, mi fa stare tranquillo, se la può comprare, denunciarla, nessuno gli impedisce di farlo. Nulla osta l'acquisto presso la questura sostanzialmente. Quindi non c'è nessuna furbata dietro. Matteo ha parlato, Fabio. Altro? Sì, Fabio. Sì. Fabio veloce. Lieto di partecipare. Niente, volevo comprare il campo da un paio di equivoci tecnici. Il primo, mi è sembrato qualche ascoltatore, confondere il porto sportivo, che è un permesso non di porto d'armi. Sì, lo chiamano porto d'armi, io già ho provato a dirlo a un ascoltatore, continuo a chiamarlo porto d'armi. È un trasporto, non è un... volte bravo. Si porre in sanzioni molto gravi anche, perché poi sarebbe un porto abusivo, in quanto col porto d'armi per uso difensivo si può portare l'arma anche in condizione one, cioè pronta al fuoco. Il porto sportivo legittimerebbe al trasporto, cioè a portare un'arma smontata, non in condizione di fuoco. E poi in un tragitto predisposto, mi sembra. Non necessariamente, perché in quel caso si potrebbe dire magari uno si sposta per una competizione, un poligono differente. Sì, se a me mi trovano sul terminillo con la pistola, dice ci vado al poligono, devo un po' giustificarla questa cosa. È sempre molto importante, innanzitutto, come diciamo, la tipologia di trasporto, cioè se l'arma è smontata in valigetta senza munizionamento ovviamente in camera. E diversamente, ecco, poi c'è un altro tipo di autorizzazione che invece ha un percorso predeterminato per il singolo poligono, ad esempio quello più vicino a casa o diversamente. Invece il trasporto, uno potrebbe dire, sto cambiando residenza, porto con me delle armi smontate, ovviamente con il titolo che è quello. È chiaro, ci sono delle restrizioni, perché l'arma, se serve per andare al tiro, deve essere usata per andare al tiro, non è che... Esattamente, invece incorrono molti in questa confusione di identificarlo come un porto d'armi. Perché a loro piacerebbe che quello fosse, il TRAS lo dimentica, non è un trasporto, è un porto. In realtà non la puoi portare in giro, non te la puoi mettere in tasca, non puoi metterla nella cintura come vedi nei film, non puoi tenerla in mano come vedi negli sceneggiati di Gomorra. Non è esattamente questo. Diverso è nell'uso abitativo, dove in realtà la normativa parla di una custodia idonea, poi quella che sia idoneo chiaramente sta un po' al buon senso della giurisprudenza. Io potrei dire, per me è idoneo sotto il cuscino perché sente freddo, che è inverno, la metto lì. Forse riscalda più di certe vicinanze nel talamo. Non tocchi domenico. Questi argomenti, non ha preferite, già dolorose per i nostri ascoltatori e non solo. Sì. Luca, buongiorno. Grazie, Luca. Buongiorno. Luca, sì. Buongiorno. Come gli altri? Uso sportivo, se così diciamo. E a casa dove la tiene? In cassaforte. Che arma ha? Ho una Tanfoglio 9x21, tiro a volo, tiro sportivo, tiro dinamico. Ma è a tutti gli effetti comunque uno sportivo. Sì, vado in poligono oppure al tirassegno nazionale qui nella mia città qualche volta, non tutte le settimane come ha detto il collega prima. Quindi per lei non è un'arma che serve a cautelare la propria abitazione, se la mette in cassaforte? Ma diciamo 50-50, io l'ho comprata per divertirmi, però diciamo anche come una piccola sicurezza. Ma se entra un ladro e dice aprimi la cassaforte, c'è anche la pistola dentro, come fa a minacciare il ladro con la pistola? Beh, non è proprio così, diciamo che a casa c'ha vari step, cioè il ladro prima che entra mi dice apri la cassaforte, devi aprire due porte prima di... E lei fa in tempo a aprirla e prendere la pistola? Sì, poi sono due di cassaforti, quindi bisognerebbe vedere quale lui vede per prima. Sarà una visibile e una invisibile, quindi io la tengo su quella invisibile. Quindi comunque è sempre pronta presa. Mi sembra chiaro, grazie. Ci fermiamo solo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Melog, cronache meridiane. Visto che sembra così semplice passare la linea demarcazione tra un tranquillo cittadino e un cittadino armato, abbiamo sentito un giorno, e qui lo riproponiamo, la vicenda personale di un uomo che ha vissuto da criminale, uno che ha fatto il rapinatore, un signore che per tutta la sua vita ha fatto rapine con la pistola in mano, un rapinatore a tutti gli effetti, un rapinatore che porta addosso nella sua carne i segni delle armi da fuoco, delle rapine andate male, un signore che ha scritto in un libro la sua carriera di rapinatore, in cui il suo mestiere era dire mani in alto. Lei la deve smettere di incorturare, vada via, su, via. Ma io non ne posso più! Allora, anzi, qui non ha capito nessuno che questa è una rapina! Oddio, cosa? Si sente male? No. Presto, questa è una... Una banca? No, questa è una rana. Una radio? Una rana. Ah, che... Una raucedine. Una racchetta. Una ratifica. Una radiografia. Una ramazza. Un cavallo. Un cavallo, ma che cavolo dici? Una radice. Una raccolta. Una razione. Rasatura. Una rapa. Una rapola. Una rapetta. Una rapuccia. Una rapina. Una rapina! Brava, la signora ha indovinato! Ma poteva dirlo subito, no? Ecco, signori, è una rapina! Allora tutti con le braccia alzate, presto! Ma lei no... Francesco Ghelardini, buongiorno! Buongiorno! Quante volte ha visto questo film e quante volte ci ha riso? Allora, riso ancora adesso mentre lo stavo ascoltando. Quante volte? Parecchie, più di una. Fantozzi va a fare la rapina, si spara sulle palle come al solito, non riesce a dire cosa faceva in questo momento. Certo. È una situazione che può accadere durante una rapina? Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, non, anche se ascoltando recitato da Fantozzi è assolutamente... Cioè può accadere che uno c'ha la pistola, a tirarla fuori e si spara addosso? Sì, assolutamente. Cioè, ma è un episodio anche che ho descritto nel libro. È nel libro, ma nessuno sa chi è lei. Francesco... Ghelardini è un rapinatore, lei quante ne ha fatte di rapine? No, diciamo ex, dai, che suona meglio. Ex rapinatore, quante ne ha fatte di rapine? mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Vabbè, più o meno. No, scherzo. Decine. Sì, parecchie decine. Meno di 100 o più di 100? Forse siamo su quello, un centinaio. Su quello, esatto. Ha pagato il suo debito con la giustizia, si è fatto tutta la prigione che deve farsi, quindi è un libero cittadino. Ha scritto un libro appena uscito per la casa editrice Oax, L'arte della rapina, come svaligiare una banca senza tanti perché. E su questo noi lo sentiremo. Chi volesse saperne di più su quella che è la vita quotidiana di un ex rapinatore, ma soprattutto del tempo della rapina, Ghelardini ha fatto proprio un manuale in cui spiega tutto, come si scelgono i compari, i complici, come si scelgono le armi, come si segue punto per punto tutte le indicazioni necessarie dell'arte del rapinare, come si fa la posta alla banca, come si individuano i bersagli, come si scappa, quali sono i complici, quali sono le dritte, insomma, tutta una storia di un rapinatore, visto che oggi tutti dicono finiremo tutti a fare le rapine. Oggi una persona che le ha fatte le rapine e ha capagato per farle vi dice esattamente cosa significa fare una rapina, così almeno non ci scherziamo più tanto. Lei durante la sua attività di rapinatore non ha mai ucciso nessuno? Assolutamente no. E come ha fatto a evitarlo? Beh, forse la fortuna, perché non mi è mai capitato appunto di dover ferire e tantomeno uccidere una persona, e questo ne do solamente la responsabilità, se è responsabilità possiamo usarlo come ma faceva parte diciamo delle cose messe in conto, che quando si entrava in una banca armati poteva accadere che si usciva lasciando qualcuno steso? Beh, certo, perché quando si impugna comunque un'arma si ha assolutamente la consapevolezza che l'arma è ovviamente uno strumento di morte, ci si augura sempre di non usarlo. Io personalmente non ho mai caricato un'arma prima di iniziare una rapina, cioè la tenevo sempre così, senza colpo in canna, come si dice, no? Quindi per lei era, diciamo, lo strumento deterrente necessario per convincere le persone a eseguire i suoi ordini una volta che entrava dentro la banca? Esatto, anche se come appunto insomma descrivo, quando si ha una certa domestichezza in certe situazioni, l'arma quasi si tende addirittura a non farla vedere, perché se devi usare un'arma come deterrente a non, ma per usare un'arma intendo anche solo mostrarla, non hai quel potere di controllo che in realtà dovresti avere, che invece Io ho letto il suo libro, la sua dotazione era una 44 Magnum, non era proprio una scacciacani. No, assolutamente. Sì, la mia dotazione era 44 Magnum, ma perché era una pistola praticamente automatica. Sicura? A tamburo, esatto. Non mi fido delle pistole semiautomatiche. Lei però è stato ferito durante le rapine? Io sono stato ferito una volta quasi mortalmente, sì, al fianco, ho subito una perforazione di un polmone e poi un altro paio di colpi subiti durante un conflitto fuoco con la polizia. Sì. Ecco, ha smesso dopo quegli episodi o ha ripreso? Assolutamente no, non ho smesso, ero anche molto giovane e un conflitto a fuoco di quel genere nel mio caso non mi aveva spaventato, se non nel momento in cui mi sono ripreso, che ho capito che avevo rischiato la morte, ma non mi ha fermato, no. Adesso no. Abbandoniamo un attimo soltanto, pur non rinnegando le categorie morali. Lei parla della rapina come un'arte, quindi per essere dei rapinatori, per farlo seriamente, è un mestiere anche quello, un mestiere nel campo del crimine, comunque un mestiere che richiede comunque delle caratteristiche professionali ben precise. La rapina fatta da improvvisati è molto più pericolosa anche per, diciamo, gli ospiti della banca o dell'istituto che diviene oggetto della rapina rispetto a una rapina fatta da professionisti veri? Sì, la rapina fatta da sprovveduti o da chi si improvvisa rapinatore per una mera necessità di denaro, non che io inizialmente non le facessi per necessità di denaro, ma diciamo che diventa molto pericolosa, perché non si ha padronanza in primis di se stessi e delle reazioni che si possono avere durante un atto di quel genere, che è sicuramente violento, che è sicuramente intimidatorio e quindi mette le persone in una condizione di soggiacere. E come tutte le situazioni in cui si mette l'altro in una condizione di inferiorità e di subire un'azione aggressiva, la reazione non si sa. È come, faccio un esempio molto molto banale, no? È come il cane che è a guinzaglio, tu lo accarezzi, non sai mai se quel cane reagirà con te dandoti una leccata o mordendoti, quindi la metti in conto, ma un'azione di quel genere, se tu sei preparato e hai una certa capacità a farla, la metti in conto e sai come prevenirla più che affrontarla, perché nel momento in cui accade hai solo un modo per lei, diciamo, qualche principio però lo mantiene nella sua carriera. Lei dice: non ha mai rapinato una gioielleria, soltanto banche e istituti postali. Perché? Beh, innanzitutto perché ho avuto una persona in particolare, che era un ragazzo molto giovane, che per rapinare una gioielleria è rimasto paralizzato per aver preso nella schiena un po' di colpi dal gioielliere. E soprattutto perché, questo vabbè, era diciamo il motivo affettivo, no? Quindi evitavo per una questione, ma perché non voleva rovinare un privato. Lei dice: la banca, privato, alla fine il patrimonio privato lo considero, faccio un esempio, io sono uno che mi incazzerei tantissimo se mi vengono a rubare in casa, no? rovina una persona, certo. Esatto, no? Cioè, la banca paga l'assicurazione. La banca paga l'assicurazione, non vado a ledere un privato. E soprattutto... Ma lei dice una cosa: una volta rapinò una banca, si fece una bella secchiata di soldi, anche valuta straniera. Poi il giorno dopo vide sui giornali: rapina ma esiguo bottino. Come mai? Erano soldi nascosti, che non bisognava dire che c'erano in quella banca. Sicuramente erano soldi non puliti e non dichiarati neppure dalla banca, sì, ma io ho raccontato quell'episodio. In realtà ce n'è stato più di uno, mi capitò anche una cospicua somma di denaro in valuta straniera, nello specifico erano dollari, dove il direttore, assolutamente in maniera palese, bisbigliandomi nell'orecchio, mi disse: per favore non spendere questi soldi. Quindi cioè, era chiaro. Sì, che li prendeva per attaccarli al muro come farfalle. Esatto, no, era per mettermi in guardia, ovviamente, per quando sarei andato a cambiarli. Ma e quindi erano, che vuol dire? Che erano soldi segnati che appartenevano al denaro sporco, è chiaro. Sicuramente qualcosa che era legato al riciclaggio, sì. E lo sapeva il direttore, ecco, per immaginare. Questo per dirvi che, esatto, anche parlando con un rapinatore si acquisiscono elementi sulla realtà che non sono quelli di istigare le persone a delinquere. Allora cominciamo a capire l'iter del buon rapinatore. Come si sceglie l'obiettivo? L'obiettivo si sceglie innanzitutto individuando una zona. Si sceglie una zona e ovviamente si tende a scegliere una zona dove teoricamente circola parecchio denaro, no? Come potrebbero essere comunque province per antonomasia ricche, oppure anche province, città piccole o province piccole dove comunque c'è un'attività commerciale florida. Di conseguenza è quasi scontato che la gente versa soldi e che nelle banche, esatto, che e qual è l'ora migliore per andarci? Qui è una scelta abbastanza soggettiva, perché l'orario migliore è ovviamente quella dove non c'è pubblico o che ce n'è meno. Gli orari dove c'è meno pubblico sono generalmente gli orari di pausa pranzo, quindi qualche minuto prima della chiusura della pausa pranzo o qualche minuto prima della chiusura definitiva degli sportelli. Ecco, lei passava molto tempo poi nell'attività di indagine della banca? Beh, sì. Una volta che l'aveva trovata, cioè questo è l'obiettivo giusto, poi cosa accade? Cosa deve fare? Studiarsi? Accade che, per eliminare tutto quello che è possibile eliminare in termini di imprevisti, ci puoi spendere indicativamente da una quindicina di giorni a un mese. Volete parlare con l'ex rapinatore? Avete domande da fare? Curiosità? Aspetto le vostre telefonate tra un istante. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Abbiamo oggi all'ascolto Francesco Ghelardini. Francesco Ghelardini ha appena pubblicato un libro, L'arte della rapina, come svaligiare una banca senza tanti perché, di Ox Editrice, con una casa editrice che lavora appunto anche con detenuti. Lei quanti anni ha fatto di galera? sfioro i 18. No, perché tutti dicono, chissà, non avrà fatto niente, 100 rapine, abbiamo detto un numero ipotetico, certo, tanto per dare un numero, capito? Poi molte volte non l'hanno preso, quindi giustamente non è stato giudicato. questo fatto. Si è fatto quanto ha detto, solo ripete? Siamo attorno ai poco più di 18 anni. 18 anni di prigione, sì, si è fatta, e qui è a parlare e ragionare, perché il suo debito è stato estinto. Non ha mai ferito nessuno, non ha mai ucciso nessuno, ha rapinato soltanto banche per un suo principio, che rapinando la banca sapeva comunque c'era un'assicurazione, non rovinava un privato. Faccio parlare Gherardini perché mi sembra giusto si sappia e si senta la viva voce, al di là della fantasia, delle ricostruzioni, di ogni rappresentazione romanzesca, di quale sia il quotidiano di un rapinatore. Mi chiede un ascoltatore, Francesco Gherardini, se lei aveva una sua accezione politica nel suo rapino, cioè un sentimento di rivalsa, volontà di attaccare le banche in quanto banche, o ha solo bisogno di soldi, fine era il suo lavoro. Nessuna accezione politica, assolutamente non c'era. Non cerca scuse, rapinava perché voleva i soldi, è fine. Sì, non mi nascondo dietro a nessuna scusa, non avevo disagi sociali, non avevo disagi familiari. Era un lavoro, aveva scelto di fare quel lavoro. Era quello che ai tempi mi sembrava la via più breve e forse anche quella più emozionante. Sì, ma si diventa ricchi a far rapine? Questo me lo domando io. Nel mio caso no. Perché se li sputtana no, tutti poi dopo. Esatto. Non, E come se li spendeva i soldi? Cioè tornava a casa con una valigiata di soldi esentasse. E poi andavo in ferie fino a che non finivano. In ferie nel senso che per in ferie non è che non necessariamente partivo per il mare. Ma poi bella vita, via. Esatto. Donne, champagne, queste cose. Sì, anche se non sono mai stato un uomo da sperperare i soldi come Nessuno si domandava, c'è una regola dal rapinatore, se lei ha un tenore di vita eccessivo rispetto al fatto di essere disoccupato, non dà nell'occhio. Dovrebbe dare nell'occhio, ma nel momento in cui fiscalmente non si esiste, perché intraprendi da subito, da giovane. Quindi lei non aveva mai pagato tasse in vita sua? Io penso, se non ricordo male, di aver ottenuto il mio primo codice fiscale a 30 anni, cioè non me ne facevo niente, per me... Era tutto al nero. Era denaro da tenere in tasca o sotto la piastrella. Ovviamente, dove si tiene poi il denaro delle rapine? Nascosto dove? Beh, paradossalmente negli anni successivi lo mettevo in banca. Ah, lo riportava in banca. Paradossalmente lo portavo in banca. Ma in banca non le chiedevano, ancora non c'era la legge che c'è oggi forse, com'è versasse tutti quei soldi, da dove venivano, nessuno lo chiedeva. Ecco, no, allora... Oggi probabilmente non si potrebbe più fare, ai tempi nessuno te lo chiedeva, anzi io ci sono stati periodi dove avevo una grossissima disponibilità di denaro versato in uno dei più grossi istituti bancari italiani e dove non avevo ovviamente nessuna giustificazione per depositi di un certo tipo, ma ugualmente ero possessore di carte di credito che di debito piuttosto che di assegno, piuttosto che di fido, e nessuno mi ha mai chiesto nulla. Cioè, chissà come se li fa i soldi con le rapine, ridevano. Gianni, fermo là. Gianni, buongiorno, sentiamo gli ascoltatori. Gianni. Buongiorno, dottor Nicoletti, avete di fatto già risposto alla domanda che volevo porre riguardo appunto a come venivano spesi i soldi. A questo punto volevo solo esprimere, dottore, la mia solidarietà per quanto detto in apertura di missioni. Ma povero cretino, l'ho sottolineato semplicemente perché le persone che pensano aver diritto di parola per dire qualunque cazzata al mondo senza avere nemmeno la capacità di articolare un pensiero, anche di odio, se uno vuol dire Nicoletti mi stai sulle palle, devi articolarlo, di essere bravo a farlo, semplicemente dire perché tuo figlio così non è sufficiente, non sei bravo, impara a usare le parole, poi ti accetterò anche come persona che ha diritto e dignità di odiarmi, se no non vali nulla, sei un numero di telefono di un idiota che manda un sms e si sente forte, cioè adesso lo leggo perché oggi la tecnologia permette di ascoltare anche la tua voce insulsa. Paolo, buongiorno. Eccoci qua. Niente, trovavo interessante la domanda che aveva posto all'inizio, cioè come si diventa un rapinatore professionista, e il signor Gherardini appunto diceva no, non è una roba così semplice. quindi lui avrà imparato da qualcuno, insomma, ecco, immagino, perché se è un'attività professionale piuttosto che artigianale, insomma, qualcuno te la deve ecco vuol sapere c'è una scuola tipo quella che faceva Totò nei soliti ignoti, ecco. Diciamo, ecco, vediamo, sentiamo Gherardini, esistono le scuole delle università della rapina? Sì, esisto, sì, io ho iniziato seguendo ragazzi già più grandi di me e quindi insomma, e ovviamente ti fanno da scuola, no? Ma il ruolo dell'apprendista qual è? Il ruolo dell'apprendista è quello, esegui quello che ti diciamo di eseguire, no? Hai questo compito durante l'azione, non ti discostare mai da questo compito, per cui ovviamente inizialmente sono compiti molto marginali, se cioè non quelli di semplicemente portaci il caffè, pulisci la macchina, queste, no, pulisci le armi. No, beh, ovviamente l'attrezzatura è un altro discorso, no, parlo proprio dell'azione in sé, è quella che ti danno il compito di controllare che magari non arriva nessuno. Il palo, ecco, comincia a fare il palo. Ecco, comincia a fare il palo, esatto. Sì, quindi sì, c'è sempre chi ti... che ti instrada e ti insegna. La prima rapina è stata proprio il suo battesimo professionale. La mia prima rapina è stata un battesimo professionale, anche se la mia prima rapina quasi per sfidare me stesso la feci da solo. E andò bene. L'ultima fu un casino, però ce la racconti che fa ridere, l'ultima rapina. L'ultima rapina fu insomma sì, un bel casino. Fu una non rapina, lei faceva, si studiava una banca, entrava e usciva, poi degli altri. Quello è stato. È quella voglio sapere. Quella sarebbe un episodio veramente da ripetere con Fantozzi che ho dato tosi. Io lì stavo semplicemente controllando la possibilità di farla e durante questi appostamenti fecero effettivamente quella rapina, ovviamente andarono a prendere le registrazioni delle telecamere e fui inquadrato mentre ero fintamente seduto a sorseggiare un cappuccio e una brioche dentro E l'accusavano di essere complice di quei rapinatori? No, mi accusavano di essere proprio uno degli autori di quei due rapinatori, di essere uno dei due rapinatori, ma a quel punto dovrei gettare la maschera. Cioè, ha confessato che stava preparando un'altra rapina? Ho dovuto confessare che la mia intenzione era di rapinarla, ma che qualcuno mi aveva preceduto, ma che assolutamente ero estraneo. E quindi è andato in galera per tentata rapina? È un episodio kafkiano. Lo so, però ecco, quello l'ha fatto capire, forse era a caso. Senta un po' un attimo cosa le dice Stefano. Stefano, buongiorno. Pronto? Stefano, lei quante volte è trovato davanti un Francesco Gherardini o qualcuno simile? Ma per fortuna nessuna, io sono un bancario. Ancora nessuna, mica detto. Speriamo, guardi, i mezzi di difesa, come diceva il signore, ormai sono abbastanza evoluti, per quanto mai dire mai. Lei cosa fa? Lo ha dei corsi antirapina? Ma noi facciamo corsi antirapina. Io ho chiamato perché è incuriosito in quanto bancario e in quanto figlio di un ispettore di polizia. Quindi mi sentivo particolarmente. Vuole dei consigli? Ma no, io avevo una curiosità, no, per vedere se combinava quello che ci dicono nei corsi e quello che può vivere un protagonista di una rapina, nel senso del signore. O meglio, cosa assolutamente è vietato, è consigliabile che un dipendente. Allora, Stefano, resti. Lei adesso immagini essere allo sportello. Lei è lo sportello. Sì. Io sono un vice direttore di filiale, non sono lo sportello, ma sono stato. Dove sta? Sta nell'ufficetto lì dietro? No, siamo una banca aperta, per cui potrei. Dietro il vetro, sì, sta nello stanzino di vetro. Perfetto. Con la pianta di ficus, la segretaria. Sì, magari ecco, pelle umana, no? Sì, però. Vabbè, comunque sta lì. Allora, Gherardini, lei vede Stefano dietro il vetro, pianta di ficus. Che consigli gli dà nel caso che entri un rapinatore? Che deve fare? Cosa non devo fare? Cosa non deve fare? Sì. Cosa non deve. Assolutamente non muoversi. Perfetto. Quello che non deve fare è non muoversi e non prendere nessuna iniziativa, eseguire assolutamente alla lettera quello che le si dice di fare, perché è quello che io, o meglio, è quello che io mi aspetto da lei, perché io sono in quel momento, anche se apparentemente tranquillo e padrone delle mie di quello che sto facendo, sono assolutamente una corda di violino. Come mi sembra aver capito però, che nell'organizzazione della squadra, della batteria che fa la rapina, qualcuno tiene ferma la gente nella sala principale, poi uno va direttamente proprio da Stefano, va da lui proprio. Assolutamente sì, l'obiettivo principale è chi ha il controllo delle casse. Quindi lei entrerebbe dietro la vetratina, andrebbe direttamente davanti a Stefano. Certo, non manco la vetratina, quindi ci conosceremmo velocemente. Certo, ma sarei anche molto gentile, sono sempre stato molto gentile. E cosa direbbe a Stefano? Cosa direbbe a Stefano? Esattamente, immagina avercelo davanti. Beh, in questo momento se ce l'avessi davanti direi semplicemente... Non si inventi nessuna chiacchiera, mi apro le casseforti, anche se sono temporizzate, perché so come si aprono. Ghilardini, la ringrazio, spero che non accadrà mai più di parlare di rapine, o perlomeno di rapine soltanto passate con lei. Alla prossima.